Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi è sempre piaciuto il mio cognome, perché è particolare. Un po' diverso, a volte è stata l'occasione per fare conoscenza con persone sconosciute. Non ho mai avuto problemi con il mio cognome, non ne ho mai avuti, fino agli 11 anni. Mi chiamo Elisabetta Jurig, ho 48 anni, vivo a Pandino in provincia di Cremona. Sono sposata e ho due figlie grandi. Ecco, io invece non ero come Elisabetta. Perché il mio cognome quando ero bambino non mi piaceva per niente. Non so perché, però il suono mi sembrava brutto. Cioè il suono del mio nome e del mio cognome insieme. Però in realtà era peggio per mia sorella, perché probabilmente la Caccia era peggio che il Caccia. Comunque, dopo qualche tempo invece ho cominciato a trovarlo interessante per un semplice fatto. Perché con la mia famiglia vivevamo, e i miei tuttora vivono, in una via del mio paese che è Via dei Conti Caccia. E quella cosa lì, da un certo punto in avanti, ha cominciato a rendermelo interessante. Ho cominciato a fare delle ricerche sul fatto che, magari c'era del sangue nobile che scorreva nelle nostre vene. Non era così, ovviamente. È un nome molto diffuso in quella zona del Novarese, del Piemonte, anche in parte della Lombardia. E ci sono dei Caccia nobili, ma non hanno niente a che fare con la mia famiglia. Da lì, però, ho cominciato a interessarmi a questa questione dei nomi, al fatto che tutti i cognomi sono talmente evidenti in quello che raccontano, che spesso li sottovalutiamo, cioè che i nostri cognomi raccontano molto di più di quanto noi immaginiamo. È un po' il caso della storia di oggi, è un po' il caso di Elisabetta Jurig, che tra poco vi racconterò di cosa si tratta e qual è la sua storia e soprattutto la storia del suo nome. Se avete un nome, un cognome particolare che ha una storia e volete raccontarla, 349 238 6666. Sono le 16:09, è venerdì 15. No, non è venerdì, è giovedì. Ma come giovedì? Ma è solo giovedì. Ma tutto intorno però sa di venerdì. Come mai? È la festa che è nell'aria quando c'è Franco Piantanida. Cioè, niente, invece dicevamo è giovedì 15 settembre del 2011. Oggi si parla di cognomi, si parla della storia dei nostri cognomi, la storia delle nostre famiglie e quindi la nostra storia. Ci sono casi come quello che mi ha raccontato Elisabetta nella sua storia, nel racconto che ha inviato a voi siete qui, @radio24.it, che sono proprio evidenti, perché tracciano un percorso di fatto. La sua famiglia è partita da un punto dell'Italia ed è arrivata in un altro punto, e rifacendo questo percorso e risalendo a ritroso la storia del suo nome, lei ha scoperto chi è. Lo sapeva già perché glielo raccontavano, però l'episodio che ci racconta oggi riguarda proprio il momento in cui un pochettino questa idea riguardante il suo nome e la sua storia si è aperta. 349 238 6666. Prima ho ricevuto una mail che non ha a che fare, diciamo, con la storia di un nome, però era divertente perché dice, è un po' lunga, aspetta che, eccolo qua, mi presento, sono Luciano Castellan, come tutti quelli nella mia situazione dobbiamo fare i conti con l'aggiunta della I o della O, o addirittura della A alla fine del mio nome. Ancora oggi, dopo tanti anni, non mi rassegno e ogni volta mestamente correggo chi lo storpia, a volte però lo confesso quando mi fa comodo lascio la I finale, così per evitare scocciature. Una volta però è successo all'INPS, ho dovuto richiedere un certificato di non esistenza in vita, nel senso che non esistenza in vita per quello che avevano scritto. Aspetta un attimo. A volte ho avuto anche delle rogne, come quando all'INPS aprì una posizione parallela ad un Castellani con i miei contributi. Ah, ok. Cioè lui ha aperto una posizione ad uno che si chiamava Castellani con i suoi contributi, e per sanare il tutto ho dovuto fare un certificato di non esistenza in vita. 349 238 6666. Luigi. Io mi chiamo Luigi Pedone, come mio zio. Aveva 25 anni, morì in seguito a un attentato fascista il 28 maggio del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia. Era un insegnante a Montisola, credo, in provincia di Brescia. Figlio di una famiglia proletaria di ferrovieri. Era stato primo operaio in uno zuccherificio, poi dopo il diploma aveva lasciato casa ed era stato minatore in Sardegna. E poi, finalmente, insegnante. Spesso, in questo caso, i nomi arrivano o vengono dati per motivi familiari, ma i cognomi vanno molto più a fondo nella storia. 349 238 6666 per i vostri, per quello di Elisabetta invece eccoci qua. chiamo Elisabetta Jurig. Jurig, senza la J o la Y, e tantomeno la H dopo la G. È molto semplice, perché è un cognome italiano. Si legge come si scrive e si scrive come si pronuncia. Mi è sempre piaciuto il mio cognome, perché è particolare, un po' diverso. A volte è stata anche l'occasione per fare conoscenza con persone sconosciute. Non ho mai avuto problemi veri con il mio cognome, non ne ho mai avuti fino agli 11 anni. Inizio le scuole medie, non la scuola di quartiere, una scuola privata, una scuola con la piscina coperta. E per me, che sognavo le Olimpiadi di nuoto, era il paradiso. La mattina studiavo, il pomeriggio nuotavo. Quindi, insomma, arrivo in questa nuova scuola. Sono felice, di quella felicità dei bambini, quella senza paura. Poi arriva la prima ora del primo giorno di scuola e la felicità svanisce. Primo giorno di scuola ricordo l'edificio immenso, ma soprattutto la voglia di entrare in quella piscina, perché poi alla fine della scuola in quel momento mi interessava quasi poco. Mi sono innamorata del nuoto con Novella Calligaris, ovviamente, che ai tempi era il mio mito, e quindi io avevo deciso che dovevo nuotare e che avrei dovuto fare le Olimpiadi. La professoressa d'italiano è una signora anziana, con i capelli legati in uno chignon e la faccia altera. Si chiama Rivoli. Ci dà il benvenuto e lentamente comincia l'appello. Per ognuno dei nomi che legge, spende due parole, facendo riferimento in un caso a un padre primario, nell'altro a un fisico nucleare. Manda i saluti a una madre giornalista, oppure chiede lumi sulla discendenza di un cognome importante. Poi arriva il mio. Si ferma, alza lo sguardo e cerca una faccia da abbinare a sto nome. E poi con tono interrogativo dice «Jurig?». Mi alzo in piedi e dico «Sono io, professoressa». Dopo un paio di domande, giusto per confermare ciò che già immaginava, comincia a raccontarmi una storia che io conoscevo bene, quella degli esuli istriani. Mia nonna e mio papà me l'hanno raccontata più volte, la loro storia. La storia di una famiglia normale che nel 1948 ha dovuto abbandonare tutto ciò che aveva. Casa, lavoro, amici. E partire. Si partiva con un baule a famiglia e una valigia a persona per un luogo sconosciuto. Loro però non volevano perdere la loro identità. Si sentivano italiani e lo volevano rimanere. E in nome di quella identità hanno affrontato dolori e sacrifici, ricostruendo la propria storia passo dopo passo. La professoressa Rivoli invece cominciò a raccontare la storia di quel nome, perché la mia storia era anche la sua. Ma più parlava e meno riconoscevo i racconti della mia famiglia. Sì, perché lei nel primo periodo fascista lasciò l'Istria e venne a Milano. Appena arrivò fece italianizzare il suo cognome, che originariamente era Zivolic. I miei invece hanno aspettato l'ultimo momento e quando sono arrivati a Milano erano dei fuggiaschi, degli esiliati. La professoressa concluse la sua breve lezione in un modo che non mi piacque, anche se non capivo il perché. Poi distese le labbra sottili a mo' di sorriso e disse «Benvenuta, Jurig». Quell'anno mi rimandò a settembre con il 5,5, dicendo ai miei che avevo un rendimento mediocre, e lì iniziò la mia sfida. Da quel momento io non le permisi mai più di darmi un'insufficienza, neanche nelle interrogazioni più difficili, e la guardai sempre dritta negli occhi. Quella fu la mia risposta a quel sorriso gelido di inizio anno. Non subii dei traumi per questo episodio della mia vita. Però da lì cominciai a notare di più alcuni dettagli, come gli sguardi interrogativi che spesso sfociavano in domande tipo «Scusa, ma sei nata a Milano?» «No, perché parli italiano benissimo, non hai inflessioni straniere». Oppure anche «Ma parli anche slavo?» Il fatto di scegliere di essere italiani voleva dire dimostrarlo anche rinunciando poi alla propria origine. E quindi ci furono delle famiglie che decisero di italianizzare il cognome, cosa che la famiglia di mio papà non volle fare. Mi hanno appioppato soprannomi tipo Yuri Gagarin o Yuri Geller. E una mia cara amica ancora oggi mi chiama affettuosamente Ivrig, in ricordo del primo appello alle superiori. Ho proseguito il mio cammino della vita sorridendo e spiegando l'origine del mio cognome un numero infinito di volte. E quando prenoto una qualsiasi cosa telefonicamente, non sono più Jurig, ma Imola, Udine, Roma, Imola, Genova. Negli ultimi anni, per via della migrazione di popoli da ogni parte del mondo, in ogni parte del mondo, il mio cognome passa quasi inosservato. Non suscita più curiosità, perché ognuno di noi ha ormai a che fare con cognomi illeggibili. I bambini nelle scuole, nei gruppi sportivi, gli adulti sul posto di lavoro o nei luoghi di aggregazione, insomma. Ricordo il primo giorno come volontaria al Piedibus. Spuntando i nomi sulla lista dei bambini da accompagnare a scuola, chiamai nomi come Harmel, Andrea, Amro, sbagliando la pronuncia dei loro cognomi. Mentre loro pazientemente mi correggevano, mi ritornò in mente quante volte era capitato a me. E quindi con il sorriso più grande che potessi fare, chiesi scusa e allungando la mano dissi: «Piacere, io sono Elisabetta Jurig. I come imbuto, U come ufo, R come ramarro, I come imbuto, G come giraffa». You're running fast, time your eyes all fade. They've gone before, stood by your door all day. For what it's worth, defend your kind from shame. The lights are down, go on inside, they've paid. La prima volta che in vita mia ho sentito un cognome istriano era quello di un calciatore. Era un calciatore del Novara Calcio e il nome era Nini Udovicic. Io ero affascinato da quel nome. Era un nome che lo stadio scandiva insieme al luogo e alla data di nascita. Fiume, 1140. Udovicic aveva due baffoni da marinaio e la testa pelata. Non sapevo cosa volesse dire quel nome, finché mi ritrovai in classe al liceo con Diego, il figlio di Nini Udovicic, la leggenda del calcio novarese. E poi, quando qualche giorno fa ho letto la storia di Elisabetta, mi è subito venuto in mente Udovicic e il modo in cui quel nome mi suonava in testa, perché era così diverso dagli altri. Che i nomi sono la cosa più evidente, però sono la cosa meno considerata di ognuno di noi. Sembrano fare un po' riferimento a quell'adagio, avete presente quello che dice che per nascondere qualcosa conviene metterla bene in evidenza? Ogni nome è il titolo di una storia. E spesso quella storia nemmeno la conosciamo, perché è così lontana che sembra avere una trama che non ci riguarda, che dice cose che non ci interessano più, ora che siamo così lontani, così diversi dalle persone che quei nomi se li sono presi, o se li, insomma, glieli hanno dati, e loro hanno iniziato a portarseli addosso. Un tizio, mi ricordo, una volta si è messo a raccontarmi che la forza identitaria dei cognomi sta tutta nella loro banalità. Mi ricordo che mi diceva che siccome lui si chiamava Lupi, che voleva dire che i suoi avi dovevano essere per forza cacciatori di lupi o aver avuto una caratteristica del corpo che li faceva assomigliare ad un lupo, ma era una cosa talmente stupida che lo stetti ad ascoltare senza dargli credito. Quel giorno però, quando ho letto il racconto di Elisabetta, mi è tornato in mente e ho fatto quello che faccio sempre quando voglio sapere qualcosa che non so. Ho cercato su Google nomi e significati e ho trovato un sito meraviglioso che dà un sacco di informazioni sul proprio cognome. Ho inserito il mio di cognome e ho scoperto che è presente in 460 comuni italiani. C'è addirittura una mappa che indica la presenza sul territorio italiano del mio nome. E poi ne dà un'ipotetica etimologia. Dice così, dice: diffuso in tutta Italia, caccia con buona concentrazione, vabbè, Lombardia, Bergamo, Milano, Varese, dovrebbe derivare da un soprannome legato all'abilità venatoria o a qualcosa legato alla caccia. Però, ecco, io ho capito che in molti casi non ci vuole un genio per capire qual è l'origine del proprio cognome. A quel punto però il trip dell'albero genealogico era partito e alla fine di 2 ore di ricerche ho scoperto una cosa che è ancora più interessante della discendenza e dell'origine dei nomi. Si chiama Genographic Project. È un progetto del National Geographic che mira a individuare la provenienza genetica di ciascuno di noi attraverso un piccolo test del DNA. Sul sito, se andate sul sito di questo progetto, per soli $99 si può acquistare un kit che contiene un tampone da saliva per fare il test, contiene una mappa genetica e un DVD che spiega il progetto e poi un sacco di altre cose. Ci ho perso quasi tutta la notte. Ho comprato il kit e ora sto aspettando che arrivi a casa. Andate sul sito e tra le cose incredibili che ci trovate c'è un atlante del viaggio dell'uomo, che in sostanza dice che ognuno di noi, milioni di anni fa, per intraprendere il suo viaggio, è partito da un'unica terra, l'Africa. I don't like your beauty mask, it's scary. appunto le storie più semplici dei nomi, no? A cui risalire sono quelle dei trovatelli. E infatti moltissimi messaggi che arrivano al 349-238-6666 riguardano quello. Daniele, ad esempio, scrive: io mi chiamo Tigli di cognome ed è stato inventato per il profumo di quegli alberi a giugno, quando trovarono il mio bisnonno trovatello. E ancora Roberto da Correggio: una mia amica si chiama Fossile di cognome. Suo nonno, trovatello, fu adottato dalla famiglia Carboni e diventò quindi un quasi carbone, da cui Fossile. 349-238-6666 non ha a che fare con i trovatelli, perché credo che conosca tutte le origini della propria famiglia, però parliamo di questo cognome che tanto l'ha dannata durante la sua vita. Pronta Elisabetta? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Sto bene, grazie. In realtà non ti ha dannata particolarmente il nome Jurig, no, a parte per il fatto che dovevi fare lo spelling o spiegarlo ogni volta. Sì, no. Infatti. Dove ma sei? Sono una donna paziente, per cui. Dove sei adesso, Elisabetta? Sono a casa. Non sei al lavoro? No. Che lavoro? Sono in fase evolutiva. Oh, mi piace. Sei in fase evolutiva, vuol dire che tipo hai finito uno, ne stai cercando un altro. Ho finito uno e sto per iniziare un altro, però mi godo il mese di settembre. Che cosa hai finito? Io avevo un negozio e trattavo forniture per abbigliamento, sì. Scarpe per la danza, ginnastica artistica, sport artistici. Ok. E niente, solo che la crisi ovviamente è arrivata anche lì. E adesso cosa hai in mente di fare? Adesso non lo so, sai, a 48 anni le cose si prendono con un'altra filosofia. Sono un po' più tranquilla, mi sto guardando intorno e intanto vado comunque avanti, perché comunque vabbè, poi c'è l'iter burocratico della società che comunque fino a fine anno è aperta, per cui sto andando avanti con le mie ultime forniture su appuntamento. Senti Elisabetta, torniamo indietro invece, sei mai più tornata in Istria? Io sì, spessissimo. Ma perché hai dei parenti? No, sì, ormai è rimasto un unico lontano zio e niente, ogni tanto andiamo al mare, ci rivediamo ai nostri posti, andiamo a rivedere la casa di mio papà. Senti, è ancora lì. Ma forse mi è sfuggito, proprio di Fiume sei? O? No, di Pola. Di Pola, ok. Di Pola, che sì. Quanto era grande quando sono partiti i tuoi? Quanti abitanti aveva? Era una bella e ridente cittadina in riva al mare. Mio nonno era capomastro e mia nonna era casalinga e vivevano felici, veramente felici. Senti, e quindi poi sei arrivata a Milano, invece adesso vivi a Pandino. Io vivo a Pandino, sì, in provincia di Cremona. Ah, ok. Quanti abitanti ha Pandino? Pandino 9.000. E cosa si fa a Pandino nella vita? Allora, a Pandino si sta tantissimo al bar. C'è un unico... Come si chiama il bar di Pandino? Il bar, ce ne saranno, guarda, almeno una quindicina. Con 9.000 abitanti? Certo. Beh, va forte il bar a Pandino. Si comincia con la colazione e si finisce con gli aperitivi e il dopo cena. Insomma, con gli aperitivi si finisce dappertutto. La sensazione è che dappertutto più aperitivi possibile per stroncarsi il prima possibile e andare a dormire. Senti, poi ti devo salutare perché però c'è una cosa che mi ha incuriosito nel tuo racconto. Aspetta che lo recupero, l'ho perso. Ah, eccolo qua, ma cos'è il piedibus? Il Piedibus è un servizio di volontariato che facciamo in collaborazione con il comune per accompagnare a piedi i bambini da casa a scuola. Comune di Pandino sempre? Sì, ma è diffuso... Allora, noi siamo stati i primi nella provincia di Cremona. A Pandino proprio? Certamente. Ok. E poi dopo Pandino poi tutti l'hanno seguito? Certo, beh, certamente, ma anche perché è utilissimo per i bambini e comunque... Cioè, ma li accompagni, scusami, li accompagni a piedi a scuola? Sì, noi okay. Abbiamo... Perfetto, non è chiaro, chiaro. Da cui Piedibus. E l'ultima cosa, esatto. Invece, come si chiamano le tue figlie di cognome? Marazzi. A posto, grazie Elisabetta, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, ancora. Grazie a te. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato Elisabetta è insieme a otto giovani ragazze. Sono vestite con una tuta che potrebbe essere da ginnastica artistica, invece è da twirling, perché hanno un bastone di ferro in mano. E per chi non lo sapesse, il twirling è le majorette. Via. Loro sono vestite con questa tuta azzurra e beige, molto aderente. Lei invece è nel centro. Ha una bella faccia sorridente, bionda, indossa degli occhiali, ha due spalle da nuotatrice, una camicia bianca, una giacca nera e Si vede, ma è italiana lei? Voi siete qui. You may have your mother's smile or your father's hair, but why do you look the way you do? The Genographic Project. Sono sul sito del Genographic Project in questo momento e stavo guardando che oltre all'Atlante... Ah, ecco, questa roba non l'avevo vista. Praticamente c'è un pezzo di questo... Sì, sono uscito di testa perché questa roba non so se sarà capita. In una finestra, in una parte di questo sito, che si chiama l'Atlante del viaggio umano, ci sono tutti i tragitti percorsi dagli uomini dai 200.000 anni fino ad oggi. E nei 200.000 anni fa non c'è niente in tutto il mondo. Parte solo dall'Africa. 60.000 cominciano ad andare verso l'Asia, 50.000 hanno raggiunto parte probabilmente della Mongolia, direi, alcuni in Australia, 40.000 invece sono già ovunque in Asia, in Medio Oriente, in Europa, in Italia no, però in Europa, in Nord Europa, ma ancora niente negli Stati Uniti e Nord America. Bisogna arrivare a 30.000 niente, 20.000 niente, 15.000 niente ancora, perché devono passare al Polo Nord, voilà, 15.000 anni e sono già ovunque nel mondo. Io ho comprato il kit, costa $99.95. Ci sono dei posti nel mondo in cui non lo possono spedire perché dicono che ci sono problemi con... ma solo in Cina ci sono problemi con lo spedire roba genetica. In Italia lo si può fare. Secondo me è una figata. 349-238-6666. Mi scrivono... dov'è? Aiuto, sui siti di ricerca non esce il mio cognome, solo alternative e varianti. Non sono nessuno, devo preoccuparmi? No, probabilmente non è stato tracciato. Ecco, prima ho aperto anche il sito, quest'altro sito che si chiama World Name Public Profiler, che vi dice dove si trova il vostro cognome, da dove arriva e dove è sparso nel mondo in questo momento. Ora facciamo una prova, Facciamo Corleoni, Corleoni. Voilà, eccolo qua. Paolo Corleoni. Allora, le città in cui si trova di più Corleoni è Senigallia, Isorella Lombardia, Cap Martin, provincia delle Alpi, Costa Azzurra, poi c'è in Belgio e in Svizzera anche. Però il paese, Paolino, il paese in cui si trova di più è la Svezia, in particolar modo in Stoccolma. Facciamo anche Piantanida. Franco, vediamo Piantanida. Vi ripeto, niente, non l'ha beccato. Piantanida. Vabbè, ma Piantanida, tu sei delle mie parti. Lombardia, Piemonte. Il posto in cui si trova di più è Gallarate. Vedi te. 349-238-6666. Il mio cognome è Bononi. Origine nobile, fondatore di Bologna, l'antica Bononia. I miei nonni, nati in Polesine, scapparono a Torino dopo un'alluvione degli anni 50. Peccato che due volte su tre, alla scuola, al lavoro, nella vita di tutti i giorni, venga chiamato Bonomi, generando un tragico effetto Fantozzi. Matteo, ma qual è l'origine del cognome Gasperini? Si fa della simpatia qui, Ma io credo di saperlo comunque. Gasperina deriva da gas, credo. Canna del gas. Oggi poi al profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, ho trovato questo messaggio da Marta. I miei bisnonni di origine spagnola, insieme al nostro cognome, si sono giocati a carte tutte le miniere che possedevano e con loro il titolo nobiliare. Pronto Marta? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Benino, dai, diciamo bene. Benino perché hai perso tutte le miniere oppure è successo qualcosa di più recente? Non lo so, chiedilo ai miei avi. Senti, tu ti chiami, si può dire il tuo cognome? Diciamolo. Cicilloni. Sì. Giusto? Scusami, sì. Cosa vuol dire che i tuoi avi si sono giocati a carte il vostro cognome? Guarda, in famiglia si racconta questa pseudo leggenda, ma è ormai assodato. Ma sei sarda tu, Marta? Come? Sei sarda? Per metà, sì. Ok. Scusa, dicevi, vai pure avanti. Un po'. Qual è la leggenda? Allora, si narra che a quanto pare siamo tutti di sangue blu, continuavano a dirmi sì, ma noi siamo di sangue blu, siamo di sangue blu. Dopodiché invece si è saputo che sì, il titolo nobiliare inizialmente c'era, ma poi è scomparso con vari giochi d'azzardo nel tempo. Ma, un po'... Scusami, ma quindi il nome è rimasto sempre quello o è stato cambiato? Sì, no, il nome almeno quello è rimasto. Ma quindi tutto il resto, tutto il resto non c'è più. Ma senti, ma quindi Cicilloni è un nome spagnolo? Sì, di origine spagnola, e poi infatti le miniere comunque, sai, dopo la, con la dominazione spagnola, i conti sono comunque, controllavano anche da qui i loro possedimenti. Miniere sarde? Parliamo di miniere sarde? Miniere, sì, sì, miniere di carbone. Di che zona sei della Sardegna? Carbogna, Sulcis, Iglesiente? No, Cagliaritano. Cagliaritano. È un po' strano perché è metà milanese. Cosa fai nella vita? La donna part-time. La donna part-time per... in che senso? Fai la donna part-time per qualcuno oppure... No, in senso lato, nel senso che per metà impiegata contabile la mattina e studentessa la sera. Marta, ti ringrazio molto e in bocca al lupo con le miniere. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Grazie a Marta, grazie a Franco Piantanida dall'altra parte, grazie a Paulino Corleoni, a Stefano D'Andrea e a Tiziano Bonini. La storia che avete sentito oggi era la storia di Elisabetta e parlava di nomi. Quella che sentirete domani invece è la storia di Emanuele e parla di tornare sulle tracce dei propri padri. La camminata fila liscia, secondo i programmi, per le prime ore. Nel pomeriggio, però, cala una nebbia fitta e imprevista. Noi proseguiamo senza indugio lungo un sentiero appena accennato, perché in montagna non c'è tempo per la paura, fino a che questo non inizia a scendere bruscamente verso valle. Questo fatto coglie di sorpresa lo zio, il capogita, che controllata cartina e bussola capisce che qualcosa non torna, che deve esserci un altro sentiero, parallelo al nostro, proprio a monte. E così, contro ogni regola, cambiamo programma e ci arrampichiamo fra pietraie e rododendri alla ricerca del giusto sentiero. Intanto le ore passano, la strada non si trova e di fatto noi ci siamo persi e non sappiamo bene nemmeno in quale vallata delle Alpi.